per questo amore che è nascosto. Ciao Marco. Ti ho fatto molto bene. È la tua sola vera Juve. Sono contento, sono contento. Il segnale è sufficiente? La bocca alta. Molto bene. Ancora non è entrato l'ora di controllo, no? No, non ho sentito nessuno. Sì, tanto c'è una giornata brutta, ma non fa nemmeno uscire, dai. No, c'è freddo anche. Ho capito, è freddo il problema. Sì, infatti. Per cui giornata deve stare a casa. Tanto dove vai? Ma poi qua. Sì. Adesso attacco il baracchino, sarò c'è un po'. Io ho già acceso, per cui all'incidente della volta avevo preso la volta di televisione, sono andato dopo 24, dopo calcio 24. Sì, lei usando la propaganda esterna per un programma audio di successione. Perché non è buono la radio. Mi trovo a dire qua. Va bene, non è un problema. La roba è privatissima. Allora, ieri mi sentivi bene gli abbaccari? Sì, abbastanza. Ma gli siete? No, anche i PMR, le figlie. Sì, tu arrivavi. Invece un'altra persona. Invece al baracchino bene, tutti e due. Invece il baracchino sì. Il baracchino non ha due risposte. E poi siamo altro discorso ancora. Cosa più che stai citando ancora? Se non c'è pensione unica non si mette la forza. Per cui se si trovi in posizione diretta, diciamo che è possibile ascoltarsi anche da abbastanza lontano. Ma diversamente no, possono più fare riflessioni, ma solo fino a un certo punto. Comunque lì è molto molto più facile. Molto molto più una conca. Qui c'è la collinetta che copre Sassari. E poi c'è Sassari che copre Gine, questa collinetta che i titoli molto importanti, quindi c'è troppo più di arrivare in mezzo di destra. Va bene, lo stesso, quando tutti i gesti sono chiari, quando non è più di non possiamo pretendere più di tanto, dai. Cassa, cassa. Io qua lancio, preparo la parte, no? Ok, va bene. Ci sentiamo subito, dai, ciao. Ok, racconto. Si senti nelle PD in PMR? Si senti nelle PD in PMR? Appunto, io adesso sono nelle due PD, sto parlando di nelle PD e si senti in PMR? Non provo a cercare il PMR e io parlo nelle PD, vediamo se ne senti. Ah, ok, vabbè, allora si era tutti i PD, sì. Appunto, è quello che intendo. Natalino, ci senti in PD? Chi era il PMR? Chi è avanti?